auguri di un felice Natale e di un buon anno nuovo da parte di Massimiliano Allegri. Tanti auguri, buon Natale a tutti i vostri giallorossi. Buon Natale, buon anno, spero che le cose vadano sempre meglio per voi e per le vostre famiglie. Con il cuore, buone feste. Faccio auguri a tutti i tifosi, a tutte quelle persone che speriamo che un anno fantastico per tutti, forza Udinese. Tutti convocati. È andata benissimo dall'urna di Nyon, è andata benissimo alle italiane della Champions League e poi vedremo come andrà il sorteggio dell'Europa League che sta per iniziare proprio in questi minuti e che seguiremo in diretta. È andata benissimo Celtic Juventus e Milan Barcellona, il modo migliore per il Milan di uscire dalla Champions senza rimpianti. La mia è una provocazione, ma ne parliamo se volete. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, oppure su Twitter, @ tutti convocati. E abbiamo convocato per parlare di questo sorteggio qualcuno che queste due partite le ha giocate. Stefano Eragno, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Quanti ne hai fatti di Milan-Barcellona? Ma, qualcuno? Due. Sì. Hai fatto la finale di Atene? Atene e poi un amichevole a Oviedo, un torneo quadrangolare, sempre nello stesso anno dove poi alla fine abbiamo vinto la Coppa Campioni. È andata benissimo il Milan, il modo migliore di uscire dalla Coppa senza troppi rimpianti. Ma io mi auguro di no, anche perché comunque nel calcio c'è sempre la sorpresa dietro l'angolo. È normale che... se si poteva evitare sarebbe stato meglio, però sai, dipende anche come ci arrivi a quell'appuntamento, anche perché a febbraio è normale che sulla carta loro sono più forti e forse questo magari il Milan può anche essere un punto di vantaggio, il fatto di andare là, sapere che potrebbe essere l'ultima e giocare senza grosse pressioni, perciò quando si gioca così magari si può dare veramente il meglio e magari può uscire anche qualcosa di sorprendente. Saluto anche Alessio Tacchinardi. Ciao Alessio. Ciao, buon pomeriggio. Dove eri il 31 ottobre del 2001? Ero in campo. Dove? contro Celtic Juventus. Ti ricordi com'è finita? Pensi che avevano perso 3-2 o no, 4-3. Avete perso 4-3. Sì. Pensi bene, ma avete perso 4-3. Com'è andata la Juventus? Ma noi eravamo qualificati, però era l'ultima partita, mi sembra, del girone, eravamo qualificati. Devo dire che però ho avuto la sensazione, forse una delle poche, di trovarmi in uno stadio, in una tifoseria che veramente fa dare qualcosa in più a questi giocatori. Perché è un'atmosfera, non ho mai visto un campo a livello internazionale con quella passione, con quella veramente adrenalina che c'è in quello stadio, quindi penso che la Juve è stata fortunata, ma quello stadio è qualcosa di speciale, fa dare un 30-40% più ai giocatori del Celtic, perché è veramente un ambiente fantastico. Sì, non dimentichiamoci che il Celtic in questo girone ha battuto il Barcellona, che non significa che il Celtic sia la peggiore delle squadre che la Juventus potesse avere in sorteggio, però a livello degli ottavi di finale, dei turni ad eliminazione diretta in Champions, è bene non sottovalutare nessuno, Alessio. Ma guarda, qua non si fanno i sorteggi quando escono sempre le squadre avversarie. Sentivo prima del Barcellona, sì, è vero che si può, non ha niente da perdere, però bisogna anche essere sinceri che la Juve è stata fortunata, il Milan è stato nettamente sfortunato perché ha trovato l'avversario più difficile. La Juve penso che sia stata fortunatissima, anche perché dell'otto che c'erano penso che il Porto e Valencia, anche a livello di qualità tecniche, l'avrebbero potuto mettere più in difficoltà. Penso che Galatasaray e Celtic erano veramente le due squadre più abbordabili, anche perché il Celtic è una squadra che gioca sul ritmo, ha poca qualità, la Juve sul ritmo fa la sua arma importante, quindi penso che la Juve sia stata favorita da un sorteggio, perché effettivamente trovare un Real o anche un Porto, un Valencia potevano essere avversari, tranne il Real che era veramente difficile, anche le altre insidiose. Io penso che il Celtic se la possa giocare alla grandissima. Paolo da Prato, caro Eragno, come ci arrivi a quella partita? È una gara chiusa, ci sono due categorie di differenza. E poi Max da Vigevano, Milan e Barcellona potrebbero anche togliere dal sorteggio, è inutile, le mettono contro d'ufficio ed è morta lì. Sì, perché sta diventando un po' il classico d'Europa, Stefano, Milan contro Barcellona. L'anno scorso ci siamo quasi annoiati, 4 partite in 3 mesi. Sì, infatti, dico... Diciamo che la sfiga ci ha visto bene in questo caso. Sì, è anche un po' recidiva. Dico la peggiore, però l'ho detto, nel calcio sai, tutto può succedere, sulla carta parti battuto e questo lo si dice almeno, gli addetti ai lavori sanno benissimo, però si sa anche che il Chelsea l'anno scorso ha vinto una Coppa Campioni, che penso che fosse la squadra meno forte di tutte quelle che erano poi in lista, pure è arrivato sino in fondo, cioè, ha fatto quasi delle figuracce, perché certe partite poi l'ha vinte, sì, però subendo, penso, come a quel livello lì una squadra non possa subire, invece lei pur soffrendo è riuscita ad arrivare in fondo, perciò sai, nel calcio non sempre la squadra più forte vince, in questo caso la squadra più forte è Barcellona, adesso vedremo come ci arriveranno a febbraio, perché ci sono anche delle situazioni che possono anche destabilizzare l'ambiente, perché comunque il problema dell'allenatore, e faccio i miei migliori auguri, non è cosa da poco, e speriamo che possa risolvere al meglio per poter comunque vedere una bella partita. Sì, io prima ho lanciato una provocazione, evidentemente da casa non tutti l'hanno capita, il sorteggio migliore per la Juventus, per il Milan, perché è il modo migliore di uscire dalla Coppa senza rimpianti. Io vi cito un dato, abbiamo detto l'anno scorso 4 partite tra Milan e Barcellona, c'erano Ibrahimovic, c'era Thiago Silva, sapete quante volte ha tirato il Milan nello specchio della porta del Barcellona in 4 partite? Stefano, Alessio, chi ci prova? Ma io dico poche. Sì, ma poche quante, perché quel numero poi fa impressione. 10? Meno, 9. 9 volte in 4 partite. E c'erano Ibrahimovic e Thiago Silva. Noi abbiamo visto il Milan anche quest'autunno in difficoltà col Malaga. Ecco, io credo che un'eliminazione eventuale dal Barcellona sia molto più facile da digerire da tutto l'ambiente, piuttosto che uscire magari contro una squadra che per 2 mesi ti illudi possa essere alla tua portata. Questa è la mia provocazione, il sorteggio migliore per il Milan. Stefano? Hai detto tutte cose che fanno quasi rabbrividire, no? Anche perché comunque devo dire però una cosa, che il Milan di adesso fa quasi giocare male le avversarie, perché io ho davanti ancora la partita contro la Juventus, eppure la Juventus è una squadra secondo me la più forte in questo momento, però è riuscita a giocare malissimo, il Torino la stessa cosa, perciò oltre avere magari non tanta qualità, però riesce in questo momento a sfruttare al meglio le sue capacità, e poi il vento è cambiato e si spera che anche a febbraio possa dire la sua. Io ricordo ancora il numero 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, sms, oppure potete scriverci su Twitter, l'account è @ tutti convocati. Alberto si sbilancia, la Juve passa perché vince 3-0 al ritorno, il Milan si qualifica, vince 2-1 a San Siro, perde 3-2 a Barcellona. Giuseppe, penso sia andata meglio alla Juventus, ma mai prendere alla leggera nessuna partita. E poi ancora, Milan qualificato con solo 8 punti, la Juventus prima nel girone, era giusto che questi fossero gli accoppiamenti. E poi è vero che lo stadio del Celtic funziona come 12° uomo, ma anche lo Juventus Stadium non scherza. E Luigi, rispetto i pareri di tutti, ma dopo Istanbul non esistono partite impossibili o già decise, magari il Milan va avanti e la Juventus no. E allora ve li leggiamo gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Celtic Juventus e Milan Barcellona, abbiamo detto, poi ci sono Galatasaray Schalke 04, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Valencia Paris Saint Germain, Porto Malaga e soprattutto Arsenal Bayern di Monaco e Real Madrid Manchester United. Alessio, credo che Real Madrid Manchester United valga, se tutto va bene, una semifinale, se non una finale. Ah sì, sono due veramente società, squadre fantastiche. Penso che come seconda Real Madrid veramente era la squadra da evitare, quindi la Juve è stata... Sì, è andata di lusso da questo punto di vista. Sì, è andata di lusso, quindi c'è da dire anche questi accompagnamenti qua romperanno un po' per gli quarti di finale, perché si elimineranno delle squadre molto importanti. Attenzione intanto perché sta per uscire l'avversaria dell'Inter, proviamo a sentirla in diretta Sky Sport. Cluj. L'Inter va in Romania contro il Cluj, Inter contro Cluj, questo è il sorteggio dei sedicesimi di finale dell'Europa League per l'Inter. Alessio, prego. No, dicevo, quindi si elimineranno delle squadre importanti, quindi sicuramente Real Manchester può essere anche vista come una grandissima finale, anche perché Real Madrid penso che sia l'avversario in questo momento qua più temibile, secondo me, e mi spiego, visto che la Liga ormai l'ha persa, perché è veramente lontano, tantissimi punti da Barça, Mourinho si concentrerà molto, anima e cuore, su questa Champions League, quindi Real Madrid secondo me arriverà con appuntamento fresco, libero di testa, perché ormai la Liga praticamente l'ha già persa, quindi sarà l'avversario secondo me da battere e più pericoloso. Sì, sono abbastanza d'accordo, poi magari più avanti nel corso della stagione evidentemente anche altri valori potranno emergere, ma soprattutto a febbraio credo che il Real Madrid avrà il sangue negli occhi. Stefano, a me invece stuzzica e molto la partita tra lo Shakhtar e il Borussia Dortmund, che sono due delle squadre più belle viste nella prima fase. Sì, hai detto bene, peccato perché comunque sia entrambe le squadre hanno dimostrato di giocare un bel calcio e sono dispiaciuto un po' per lo Shakhtar, anche se non parte battuta, però il Dortmund ha dimostrato veramente tanta organizzazione, forza, qualità, che in questo momento forse è la squadra più in forma. L'ho detto, il fatto di giocare a febbraio, avere la sosta natalizia, sai, tante cose possono succedere, se la fortuna a questa squadra di non avere problemi fisici nei loro singoli giocatori, quelli magari più rappresentativi, può benissimo arrivare fino in fondo. Grazie Stefano Eragno. Grazie a voi. E grazie anche a te Alessio Tacchinardi. Ti giro solo un SMS, è arrivato al 349-238-6666, Drogba è l'anti-Barcellona, con Drogba passiamo. Credo scriva un tifoso del Milan, ma forse interessa più ai tifosi della Juventus, visto quello che ha detto ieri Galliani. Hai l'impressione che anche questo sorteggio ispiri la Juventus per un mercato di gennaio a rinforzare la squadra? Ma infatti, prescindere poi da quello che si parlava Stefano, che si doveva vedere dopo quando si arriva alla competizione importante, io penso che un altro fattore fondamentale sia il mercato di gennaio un po' per tutti, perché se si riesce a prendere un giocatore, andare a puntellare sia per il Milan, che ne ha bisogno secondo me là davanti, ma anche per la Juve, possono cambiare tanto gli scenari, quindi io penso che visto il sorteggio, visto la Juve soprattutto, che ha un Celtic che potrebbe avere con una partita importante come Real Madrid, magari un canalone libero, un giocatore importante là davanti potrebbe veramente farti arrivare quasi alla fine, perché può succedere, anche perché è un conto, la Juve si è trovata una squadra difficile ma una squadra abbordabile, quindi dopo se nei quarti può succedere di tutto, quindi penso che il mercato di gennaio per le squadre sia molto molto importante. Grazie anche a te Alessio. Ciao, buon pomeriggio. Grazie ad Alessio Tacchinardi. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Intanto va avanti il sorteggio dell'Europa League e lo ricordiamo, l'Inter ha pescato i romeni del Cluj. Sentiamo Nedved, che oggi era a Nyon. Guarda, uno potrebbe dire che è abbastanza facile, perché magari tutti volevano Celtic, ma io devo dire che è un avversario di tutto rispetto, perché lo conosco ambiente, che abbiamo giocato già lì, sono passato, ma sono stati anche unici quest'anno a battere Barcellona, perciò, come ho detto, un avversario di tutto rispetto, ma ovviamente ci poteva andare molto peggio. E questo era Pavel Nedved. Dopo vi facciamo sentire che cosa ha detto quando gli è passato vicino McManaman con la Coppa dei Campioni. Marco da Modena, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Diciamo che mi avete un po' anticipato nell'ultima domanda, infatti era questo che volevo chiedere, visto che sono tifoso del Milan, se poteva riparare col mercato di gennaio al Milan e magari diventare un po' più competitivo quando giocava. Marco, però spenga la radio perché si sente il rientro e poi completa il suo intervento, prego. E, dicevo, diventare un po' più competitivo e giocarsela un po' di più col Barcellona se metteva a posto la squadra in gennaio. Sì, Marco, però io non credo che questo sia un sorteggio che può invogliare il Milan a spendere molto a gennaio in prospettiva Champions. Noi i numeri li abbiamo dati prima, in 4 partite 9 tiri in porta, ed era l'inverno e la primavera del 2011-2012, non un secolo fa. C'erano Ibrahimovic, c'era Thiago Silva, c'era Nesta, c'era Seedorf, era un altro Milan. Eppure quel Milan a livello di gioco non è nemmeno andato vicino a qualificarsi con il Barcellona, anche se poi ha anche giustamente recriminato nella gara di ritorno per l'arbitraggio di Kuipers. Io non so se questo è un sorteggio che invoglia Berlusconi e Galliani a spendere perché magari si apre una strada verso i quarti o verso le semifinali di Champions. A me sembra onestamente un pronostico abbastanza chiuso. Filippo da Milano, buon pomeriggio. Sì, buongiorno. Prego. Buongiorno a tutti. No, io volevo assolutamente dire questo, che vorrei tanto che i giocatori del Milan sentissero questa trasmissione come tante altre trasmissioni sul calcio, perché io sono un tifoso milanista ovviamente molto critico, quindi adesso non sto qui a elencare quelli che sono stati i danni fatti ad oggi, perché sono agli occhi di tutti. Però siccome credo che in una partita importante come quella, al di là del tasso tecnico, ovviamente differente tra le due squadre, ma secondo me sarà molto importante la motivazione, sentire la sua battuta, almeno la prendo come battuta sul Milan, era una provocazione, Filippo. Certo, ma ci mancherebbe. Ma la prendo così, no, ma era per dire che vorrei tanto che i giocatori del Milan seguissero alcune trasmissioni, perché secondo me potrebbero essere un buon modo per dimostrare magari qualcosa che ovviamente qualcosa del contrario, cioè quella di giocare alla morte per eventualmente passare il turno. Era solo anche la mia una provocazione. Oh, sicuramente a livello di motivazioni e di scarico di pressione, io credo che per il Milan sia la situazione migliore in assoluto. A livello di gap tecnico sicuramente no, però io le faccio una domanda. Secondo lei l'anno scorso ha sofferto di più l'uscita e ha lasciato più strascico l'uscita, ad esempio, del Milan contro il Barcellona o dell'Inter contro il Marsiglia? No, io credo l'Inter contro il Marsiglia, perché noi ovviamente certo. L'anno scorso avevamo una buona squadra e secondo me abbiamo giocato molto male. Tutto qua. La mia provocazione è quella, grazie Filippo. Antonio da Latina, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Prego. Io sono un tifoso juventino e mi domandavo, effettivamente la Juventus, io ho visto che sempre ha avuto più difficoltà, diciamo, con le piccole squadre e non con le grandi squadre blasonate. Secondo lei ancora adesso la Juve di questi tempi è così o vi posso sbagliare? Guardi, io credo che la Juventus da questo punto di vista potrà beneficiare molto del rientro di Conte in panchina. E devo dire che a me ha impressionato nella prima mezz'ora contro l'Atalanta in casa. Partite di questo genere nei primi 2 mesi di queste stagioni l'aveva anche sofferte. Contro l'Atalanta è stata una squadra nuovamente feroce come era stata un anno fa. Ecco, io credo che da questo punto di vista Conte fa la differenza e credo che la faccia anche a livello europeo, dove secondo me la difficoltà di comunicazione, mi perdoni, maggiore rispetto a quella che c'è nel campionato italiano tra un tecnico squalificato e i suoi collaboratori, ad esempio secondo me ha creato qualche problema nella gara interna contro lo Shakhtar e a Copenaghen, dove i tempi di reazione della panchina della Juventus sono stati un po' lenti nell'adattarsi alle difficoltà. Penso addirittura al tridente schierato a Copenaghen soltanto negli ultimi 7 minuti in una partita in cui in tutto il secondo tempo il North Zealand praticamente non attaccava più. Beh, a febbraio tutti questi problemi non ci saranno. Intanto è uscito l'avversario della Lazio, è il Borussia Mönchengladbach. Dunque Lazio Borussia Mönchengladbach nei 16esimi di finale dell'Europa League. Manca davvero poco alla fine del sorteggio e resta ancora il Napoli. Quasi tutte le avversarie più difficili si sono piazzate. Il Chelsea ad esempio gioca contro lo Sparta Praga e il Benfica adesso è il turno del Tottenham e diciamo sta andando a concludersi il sorteggio dell'Europa League. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi. Nel caso passasse il turno, chi potrebbe trovare la Juventus nei quarti? Scrive un amico da casa. È troppo presto perché il tabellone tennistico viene fatto dai quarti alle semifinali. E poi il Milan passa il turno solo se a gennaio compra Messi, scrive un altro amico che non si firma. E ancora un tifoso del Milan: Drogba non ci serve, abbiamo deciso di puntare sui giovani e allora avanti così, diamo tempo ad Allegri, vedrete dove arriveranno i nostri ragazzini e se non batteremo il Barcellona quest'anno lo faremo il prossimo. Stefano, sottoscrivo lo spirito di questo messaggio. Graziano da Cagliari, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, buon lavoro. Niente, io su Cagliari Juventus, sullo stadio, è una situazione per noi tifosi imbarazzante. Siamo dall'anno scorso che non riusciamo a giocare in una casa sportiva. Quello che sta succedendo al Cagliari, alla nostra società, ma mi sembra che stia passando un po' troppo sotto silenzio. E quindi niente, probabilmente c'è bisogno di un più di approfondimento, qualche ragionamento anche sulle scelte di carattere politico, perché siamo una piccola società che da anni fa un bel campionato e nonostante tutto questo non viene riconosciuto. Premetto che sono dalla parte del presidente rispetto a molti che invece ci sono un pochino contrari, però di fatto il campionato per quanto riguarda la nostra squadra mi sembra falsato più di errori arbitrali e di altre cose. Speriamo che ce la caviamo. Sì, io Graziano sulla vicenda di Isarenas l'ho detto anche ieri, alzo le braccia e mi arrendo perché ci capisco davvero poco e devo dire la verità, capisco ancora meno da quando ho letto ieri sera, poco prima delle 19, il sindaco di Quartu concedere improvvisamente l'agibilità allo stadio, a quel punto però fuori da ogni tempo massimo, perché vede io credo che sia già uno scandalo che ad esempio in quella che è un'industria, lo ricordiamo, che fattura miliardi di euro come il calcio italiano, a 48 ore da una partita non si sappia dove questa partita si gioca, con tutti i problemi di pubblico legati. Quindi a un certo punto penso che abbia fatto bene la Lega Calcio a impuntarsi e a decidere che si restava a Parma malgrado l'agibilità dello stadio di Isarenas. Poi chi abbia ragione tra il sindaco, la prefettura, il presidente Cellino e tutte le vicende locali, io sinceramente alzo le braccia e non sono in grado di giudicare. Giacomo da Parma, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Intanto è arrivato anche l'avversario del Napoli, è il Viktoria Pilsen, prego Giacomo. Rispetto alla provocazione sui sorteggi della Champions che ha scatenato credo tutti noi milanisti, no, io dico che se le cose vanno come dovrebbero andare, noi chiaramente siamo fuori e la Juventus va avanti, no? Però dico, a sorteggi invertiti poteva tranquillamente succedere che noi andavamo avanti, credo che il Celtic lo possiamo battere noi in due partite e la Juventus andava fuori, per cui io dico il vantaggio per il calcio italiano da questo sorteggio non lo capisco. Possiamo dire che il Milan è stato sfigato e la Juventus è stata fortunata. Ma vede però Giacomo, il Milan è stato certamente sfortunato, però le chiedo sinceramente quale delle squadre che il Milan poteva pescare nell'urna secondo lei sarebbe stata sfavorita dal pronostico? Le leggo: Barcellona, Manchester United, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Paris Saint Germain e Schalke 04. Forse lo Schalke 04, forse, ma questo è il risultato di una qualificazione ottenuta con 8 punti e a fatica in un girone non trascendentale. Non è un caso che la Juventus sia prima e sia entrata così nell'urna e il Milan ci sia entrato da seconda con queste potenziali avversarie, o no Giacomo? Ah beh, no, indubbiamente noi non è che avevamo delle grandi opzioni, di certo insomma ci è capitata probabilmente la peggiore. Sì, non c'è dubbio. Da questo punto non c'è dubbio. Grazie Giacomo. Germano da Lodi. Sì, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei e buon Natale. Grazie. Volevo tornare sulla sua dichiarazione dei 9 tiri in porta in 4 partite. Sì. Ho rivisto... Non li ho contate io, eh. Ho preso le statistiche ufficiali dell'UEFA, prego. No, va bene. Io sono milanista, naturalmente. Ho rivisto il secondo tempo del famoso 2-2 con il gol di Thiago Silva all'ultimo secondo. e il Barcellona tirò in porta tre volte forse, compreso il gol di Silva, che fosse punizione, credo. Abbiamo un gioco, secondo me, ognuno vede il calcio come palloso, perché il gioco di Guardiola a me non piaceva proprio. Sì, un po' orizzontale, però ma, adesso noioso mi sembra esagerato. Ma insomma, guardi, se lei si ricorda, con le dovute differenze, noi non avevamo Messi, Iniesta o Xavi, il gioco di Lidl, quando c'era Lidl, tenevamo la palla, era quello lì il gioco che faceva il Milan prima con Lidl. Finché la palla avevamo noi, gli avversari non potevano segnare. E Guardiola in quel senso ha un po', non dico copiato, ma ha imparato. Mi ricordo l'Inter di Mourinho quando andò là e non tirò mai in porta, ma si qualificò l'Inter. Mourinho disse: lasciamo la palla al Barcellona, non la vogliamo noi. Sì, in realtà lo disse quando ci andò durante il girone a novembre e difatti finì male 2-0. La storia nei quarti di finale, in semifinale, fu una storia leggermente diversa, quella di Inter Barcellona. Detto questo, che il gioco di Guardiola a tratti fosse troppo orizzontale è stato evidente a tutti, soprattutto nelle serate e nei momenti in cui il Barcellona non è stato al meglio della forma, ma quando quel gioco si unisce a una condizione straripante come è stato spesso nei 4 anni di Guardiola, io non credo che negli ultimi 30 anni ci sia stato calcio migliore o più innovativo. Certamente quello del Milan di Sacchi mi viene in mente, per tornare agli anni 80, però dire che si tratti di un calcio noioso mi sembra quantomeno esagerato. Il riepilogo allora: in Champions Celtic, Juventus e Milan Barcellona, ma c'è anche Arsenal, Bayern di Monaco e Real Madrid Manchester United. In Europa League Borussia Mönchengladbach, Lazio, Inter Cluj, Napoli Victoria Pilsen. A proposito di notizie, ve ne diamo due. Una riguarda il Cagliari, che ha presentato il ricorso al CONI per lo 0-3 contro la Roma per la vicenda di Isa Arenas, per la quale il presidente Cellino è stato anche denunciato. E poi l'altra notizia relativa alla Coppa Italia, della squalifica di 3 giornate per Osvaldo, l'attaccante della Roma, che dunque tornerà disponibile soltanto per un eventuale finale. Filippo da Siena, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Prego. Volevo fare una considerazione per cui la sorte, credo che se si guarda nelle ultime edizioni della Champions League, svolge sempre la parte del leone. Io penso alle edizioni del 2005 Liverpool, del 2012 Chelsea, del 2010 Inter, tutte situazioni in cui le squadre che, diciamo, se lo meritavano hanno poi trovato un via libera anche nei sorteggi. E penso anche a quando la Juventus del post Calciopoli vinse il girone vincendo 2 volte contro il Real Madrid, ma poi nel sorteggio si beccò il Chelsea, che era l'unica squadra che era indesiderata. Ecco, io credo questo, che come la Juventus ora con la nuova dirigenza sta facendo le cose molto bene, credo che la sorte l'abbia voluta premiare concedendogli una squadra che va rispettata, ma che comunque era forse la preferibile di tutto il lotto. E ritengo proprio, appunto, che se si guarda in passato, il passato, ci sono state delle situazioni come pensate a Chelsea l'anno scorso, che rischiò di andare fuori con il Napoli, che hanno trovato poi una strada forse anche benedetta dalla sorte fino alla finale con il rigore di... Sì, poi ci sono le annate, quelle che funzionano bene, quelle in cui gira tutto dritto, quelle in cui è successo anche all'Inter di Mourinho, perché da febbraio in poi comunque all'Inter di Mourinho, tra episodi e rimpalli, è anche andata bene nell'anno del triplete. Però bisogna essere squadra per trovarsi nelle condizioni di poter arrivare fino in fondo. Rispondo a qualcuno che scrive, ecco qui, Gianluca, tifoso della Juventus: perché la Juventus non ha fatto il gesto di invertire i campi, visto che è proprietaria del suo stadio e che al ritorno Isa Arenas sarà agibile? Io credo che non l'abbia fatto semplicemente perché non è previsto dai regolamenti e quasi certamente la Lega Calcio non avrebbe accettato. E poi, per la Juventus era meglio una squadra più forte, meno difensiva contro il Celtic, la vedo dura, scrive un altro amico che non si firma. Sì, è vero, però È anche vero che la qualità del Celtic complessivamente è certamente inferiore a tante altre ipotesi che la Juve poteva pescare oggi nell'urna. E poi, per cortesia, il Cluj, avversario dell'Inter, era in Champions. Da quale girone è stato eliminato? Il Cluj è stato eliminato nel girone in cui si sono qualificate il Manchester United e il Galatasaray. Saluto Franco Arturi, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Buongiorno a tutti. Buon pomeriggio Franco, cosa ne dici dei sorteggi Milan, Juventus e poi anche le altre di Europa League? Beh, insomma, è un bel impatto soprattutto per il Milan, che cosa volete che possa dire a riguardo? Peggio di così o addirittura meglio di così, a seconda dei punti di vista, diciamo così, neutrali, non si poteva, e questo mi sembra la cosa emergente. Il resto mi sembra molto più insomma, normale e tranquillo. Mi hanno sempre aspettato da 11 anni e ho provato tante volte, quindi credo che sia state più le volte che ho vinto che tutto il resto. Quindi sono molto orgoglioso di essere uno dei nemici giurati di Livorno, e la cosa è molto reciproca, quindi però rimanere sempre nei canoni. Io faccio l'allenatore e devo pensare alla mia squadra, il resto ormai sono abbastanza abituato a queste situazioni, però mi rende orgoglioso il fatto di essere così preso in male maniere, in male parole a Livorno. Orgoglioso di essere odiato dai tifosi del Livorno, sono le parole che sono costate la squalifica a Mandorlini. Poi oggi abbiamo letto sui giornali di questa strana pena, oltre alla squalifica fino a fine gennaio, l'obbligo per 7 interviste pre e post partita di predicare i valori del calcio e dello sport. Io non ho mai letto e sentito qualcosa di simile. Che giudizio vogliamo dare, Arturi? Molto positivo. Io credo molto nel politicamente corretto, come ho avuto occasione di scrivere in tutt'altro contesto proprio sulla Gazzetta di oggi. Lo sport, senza le sue radici, le sue fondamenta nel fair play, nelle regole, nei valori, è semplicemente una materia inesistente. Per cui obbligare a ripetere come un mantra un personaggio che lavora all'interno dello sport, quelli che devono essere i suoi valori di riferimento, anche come elemento simbolico, trovo che sia una cosa sicuramente originale, ma largamente positiva. Naturalmente non mi nascondo le ironie, il disprezzo di alcuni, il fatto che recitare magari senza convinzione qualche cosa è ipocrisia. Però sì, io perché penso... poi dovremo scrutarlo negli occhi, cercare sì, il mezzo ecco. Sorriso per capire se sta interpretando bene una parte che io non so neanche se sia la sua. Forse Mandorlini non è il bullo della Serie B come qualcuno ha scritto nelle scorse settimane, però certamente è un personaggio che non fa fatica ad esprimere le sue idee anche quando sono borderline. Io non ce lo vedo in questa veste da scolaretto che ripete e scrive 100 volte sulla lavagna devo fare il bravo. Diciamo fatti suoi, e questa pena che lui stesso per la quale lui stesso è stato colto in contropiede potrebbe aprire anche una strada di riflessione dentro di lui. Io tutto sommato me lo augurerei. Comunque Mandorlini e tutti i Mandorlini del mondo, vale a dire tutte le persone che lavorano all'interno dello sport, esistono e possono avere un ruolo, a volte anche uno stipendio, perché lo sport è quello. Negarlo, come purtroppo è accaduto in diverse occasioni a Mandorlini, è un, come dire, un'effrazione. Richiederne un plateale pentimento mi sembra un'operazione efficace, ripeto, senza nascondermi quelli che possono essere. Sì, che c'è anche un po' di ipocrisia. Sky Sport, ti faccio un momento. Franco, ti faccio sentire Cordoba che sta commentando il sorteggio dell'Inter. Non il Chelsea, però, quindi non Rafa Benitez. Non era questa la squadra da non incontrare? Il Chelsea mi sarebbe piaciuto, sinceramente. È una bella sfida, sono dei bei ricordi. E comunque credo che l'Inter deve essere pronta ad affrontare, come ho detto prima, qualsiasi squadra in questo momento. Sì, il Chelsea sarebbe piaciuto a Cordoba, però meglio il Cluj. Torniamo invece su Mandorlini, Franco Arturi. Dicevo, non sono assolutamente d'accordo con il termine ipocrisia, non ci vedo nessuna ipocrisia, ci vedo una decisione che va nella direzione di quello che significa e dovrebbe essere sempre lo sport. Dopodiché, siccome siamo uomini, persone, ciascuna fallibile con il nostro carico di errori, di imprecisioni, allora cadiamo in frequentemente, ma sgombriamo il campo dall'ipocrisia, cioè voglio dire non ha senso parlarne, ha senso parlare di una diciamo così sentenza di tipo provocatorio, ma chiaramente nel senso buono. Poi sappiamo tutti che nessuno di noi è un angelo, però tendenzialmente in quella direzione dovremmo marciare nell'ambito dello sport, se vogliamo parlare di sport. Se vogliamo parlare di Blade Runner è un'altra cosa. Sì, ti giro un messaggio arrivato al 349-238-6666. Mandorlini è un grande, meno male che c'è qualcuno non ipocrita in un mondo del calcio dove non esistono gay e quant'altro, perché poi uno si costruisce anche questa fama. Ma io resto non sconcertato, perché li sento costantemente questi giudizi. Cioè Mandorlini non è il vendicatore di nessuno. Sostenere una sciocchezza o essere protagonista di un comportamento volgare, offensivo, antivaloriale, non è non essere ipocriti o essere liberi, è semplicemente un essere portatori di atteggiamenti sbagliati. Quindi Mandorlini non solo non è un modello in quelle circostanze, naturalmente non è stato un modello positivo, ma è stato un modello negativo. La non ipocrisia non c'entra niente. Per chiudere, oggi si elegge forse il nuovo presidente della Lega Calcio. Secondo te il prossimo presidente sarà capace di evitare il pasticcio di Cagliari-Juventus? Altra brutta pagina. Io me lo auguro, ma io auguro soprattutto al prossimo presidente, e mi riallaccio in pieno al discorso su Mandorlini, di porre l'emergenza etica al centro delle priorità, in cima alla lista delle priorità della Lega, perché è di questo male che soffre il nostro calcio, cioè cercare di eliminare quanti ritengono il Mandorlini discolo un buon modello può portare a riportare il calcio italiano ad un livello che ha drammaticamente perso. È qui che il calcio italiano deve essere rifondato, nella cultura sportiva, nei valori e nel fair play. Fino adesso, nel contesto della Lega, questi discorsi non sono mai stati nemmeno cominciati. Sì, si è fatta una spartizione dei diritti televisivi. Grazie a Franco Arturi. Grazie a tutti voi. Grazie a Franco Arturi, vice direttore della Gazzetta dello Sport. 800 24 0024, Mauro da Napoli, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, ciao. Complimenti. Prego. Innanzitutto per la trasmissione. Grazie. Che è davvero meravigliosa. Io sono tifoso della Salernitana e volevo soltanto ricordare che Mandorlini non è nuovo a questi tipi di intemperanze. No, assolutamente. Ma lo abbiamo detto, c'è chi ha scritto che è il bullo della Serie B e ha chiesto di fermarlo. Secondo me è un'esagerazione anche quella, eh. Prego, Mauro. Io di tutto volevo ricordare che 2 anni fa ci fu la finale di playoff di Lega Pro, Salernitana-Verona. Il Verona andò in Serie B, la Salernitana purtroppo non ce la fece. L'anno successivo, ovvero sia lo scorso campionato, Mandorlini al ritiro del Verona cantò in tono cori razzisti contro i meridionali cantando "Ti amo Terrone". Sì, ma se lo ricordano tutti, ma Mauro, non c'è scandalo. Una classifica dell'imbecillità da questo punto di vista. Ma infatti si gridò allo scandalo quando poi Cutolo del Padova, segnando contro il Verona, che poi era, alla fine era anche un derby quella partita, andò proprio contro Mandorlini e gridando proprio a chiare lettere "ti ha segnato un terrone". Sì, mi ricordo benissimo questa scena. Certo, e anche Cutolo poteva risparmiarsela, Mauro. No, questo è vero, sì, perché poi non si deve scendere in provocazioni, su questo sono d'accordo. Però effettivamente Mandorlini dovrebbe essere un po', diciamo, fermato un po' prima. Chissà perché che... Davvero chissà... è un allenatore che... diciamo crea difficoltà anche al Non so, la rabbia nei tifosi. Chissà che questo così. Tipo di punizione innovativa non gli serva. Effettivamente è una cosa innovativa, veramente una cosa sembra interessante. Insomma, vediamo, attendiamo con impazienza a febbraio queste 7 interviste. Grazie Mauro. Paolo da Pescara, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Prego. Sono sulla stessa lunghezza d'onda di Mauro. Volevo solo ricordare una cosa. Quando qualche tifoso si espone qualche striscione particolare, vedi Torino, no? Si chiedeva alla Juventus di prendere delle decisioni, ma di prendere delle decisioni. Quando la Juventus ha preso le decisioni erano troppo leggere. Ora io dico questo, un addetto ai lavori come Mandorlini dovrebbe semplicemente vergognarsi ed essere radiato, perché è un fomentatore, è un fomentatore. Paolo da Rovigo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, la mia vuole essere una campana completamente differente rispetto a quella dei due signori. La ospito volentieri perché ne stanno arrivando anche al 349-238-6666. A me fa piacere, lo dico, che sia aperta la discussione su Mandorlini, ma soprattutto su questa forma di punizione che ha deciso il giudice sportivo. E, evidentemente quello che penso e che pensiamo l'abbiamo detto e siamo contenti di sentire la vostra. Prego Paolo. Non solo tifoso dell'Hellas, sono milanista per essere precisi, però quindi tutto tranne che tifoso dell'Hellas, ma una cosa è certa, la fiera dell'ipocrisia che mi è toccato sentire rasenta il ridicolo, cioè ti amo Terrone, per chi non lo sapesse, è una canzone degli Squallor. Sì, quindi però poteva evitarsela Paolo, per cortesia, cioè detto in quel contesto, no? Questione di contesto, mi perdoni? Dica. Non è questione di contesto, cioè la gente dell'Hellas viene praticamente presa a calci, metaforicamente, logicamente, ovunque. Quindi cioè, Mandorlini si sente parte praticamente della tifoseria dell'Hellas e quindi ci può anche stare, non ha ammazzato nessuno. Cioè non è un esempio, va bene, ma ribadisco, questa ipocrisia di... che non serve a nulla praticamente, e anzi mi faccia dire un'ultima cosa, questa ipocrisia non serve a nulla, più che santificare certa gente con la maglia a strisce che ha fatto ben di peggio e che diciamo ha fatto non vedo, non sento, non parlo negli spogliatoi, sì, forse avrei radiato lui che altra gente. Ma io non avrei radiato nessuno dei due, pensi lei Paolo, nemmeno Mandorlini, secondo me basta un mese di squalifica. Mi scuso con Cristiano dalla provincia di Verona, se vuole ripartiamo da lui domani alle 14, però il tempo è finito. Io ringrazio Franco Piantanide in redazione, Roby Scaltritti in regia, l'appuntamento con tutti i convocati domani a partire dalle ore 14. Merry Christmas to all Manchester City fans and thank you for your support.